get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Una donna, per esplorare ed esprimere appieno la propria sessualità e le proprie capacità emotive ed intellettuali, dovrebbe correre grossi rischi ed attuare una profonda rivoluzione delle condizioni sociali che la reprimono e la costringono. L'alternativa è persistere nel tentativo di adattarsi all'ordine del mondo, consegnandosi per sempre alla schiavitù di uno stereotipo di femminilità riconosciuta, ossia, se vogliamo, ad una perversione. Ciao a tutte da Deborah e Laura, del coordinamento Lesbiche Romane. La frase che vi abbiamo appena letto è di Louise Kaplan, autrice del saggio di psicoanalisi del 1991 Perversioni femminili, le tentazioni di Emma Bovary. Da questo saggio la regista Susan Streatfeld, affiancata da un'equipe tutta al femminile, ha molto liberamente tratto nel 1996 il film omonimo, che ha affollato le sale cinematografiche ed in seguito è andato a ruba nei noleggi di videocassette. Lungi da noi avventurarci in una critica di questo difficilissimo film, ricco di simbologie e di immagini oniriche. Analogamente, lasciamo a donne molto più ferrate di noi nel campo della psicoanalisi la recensione del saggio della Kaplan. L'aspetto che ci piaceva cogliere, a parte il forte contrasto che nasce dal trarre un film narrativo da un saggio di psicoanalisi, ed infatti anche tra di noi è controverso quanto il film tragga dal libro, dicevo, l'aspetto che ci piaceva cogliere è relativo ad un contrasto ancora più evidente. La folla di etero è stata attratta nei cinema dal titolo accattivante Perversioni femminili e dal fatto che, nel turbinio di immagini, simboli e situazioni contenute nel film, i giornali citassero nelle loro recensioni esclusivamente, ed aggiungerei morbosamente, la storia che una delle due protagoniste ha con una bellissima psicoanalista, dalla quale, attenzione, non era in cura come potreste invece immaginare. Una volta sedute e seduti nelle comode poltrone del cinema o di casa propria, le signore e i signori convenuti si vedevano propinare come quadro iniziale del film, scritta bianca su sfondo nero, la rivoluzionaria frase della Kaplan, che abbiamo citato all'inizio della trasmissione. Poi iniziava questo film difficile e simbolico, che sicuramente annoiava chi aveva ben altre prospettive. Pochi e pochi hanno detto, le sale piene si trasformavano man mano in sale vuote, sul videoregistratore imperversava lo stop, molto, ma molto prima della fine del film. Sleepwalking through the all-night drugstore, baptized in fluorescent light. I found religion in the greeting card aisle, and now I know Hallmark was right. And every pop song on the radio is suddenly speaking to me. Your art may imitate life, but life imitates TV. You've been gone exactly 2 weeks. 2 weeks and 3 days. And let's just say that things look different now. Different in so many ways. 'Cause I used to be a superhero. No one could touch me, and not even myself. And you were like a phone booth that I somehow stumbled into. Now look at me, I am just like everybody. Like everybody, yeah. If I was dressed in my best defensive, would you do agree to meet me for coffee. If I did my tricks of smoke and mirrors, would you still know which one was me? If I was naked and screaming on your front lawn, would you turn on the light and come down? Screaming, there's the asshole who did this to me. Strip me of my power, strip me down. 'Cause I used to be a superhero. No one could hurt me. Your knife and myself, you were like a phone booth that I somehow stumbled into. And now look at me, I am just like everybody else. Yeah, just like everybody. Il brano suppedito che abbiamo ascoltato è del 96 ed è tratto dal CD Delete della musicista lesbica americana Annie DiFranco. Dal 1990 Annie autoproduce le sue opere ricche di riferimenti politici e socialmente anticonvenzionali, ma ormai è una casa discografica che la segue con attenzione. Il brano che invece ascoltate in sottofondo mentre parliamo è Sin Palabras delle Kick La Luna. Abbiamo appena visto il film L'ospite d'inverno con Emma Thompson e sua madre nella realtà e nella finzione, Phyllis Dalloux, presentato al Festival di Venezia. Autentica poesia in immagini su quattro storie di diverse generazioni che si intersecano lungo le coste della Scozia. Complimenti Emma, la tua interpretazione è stata un tocco delicato, struggente e incisivo in un algido e incantato paesaggio. Aspettiamo anche che tu scriva un film sull'amore lesbico, così come hai dichiarato in un'intervista, quando ti è stato chiesto perché rifiutavi la parte di Stephen Gordon, la protagonista del romanzo Il Pozzo della Solitudine, di Radcliffe Hall, un grande scandalo degli anni 20. Hai dichiarato di rifiutare quel personaggio perché dal romanzo la scelta sessuale sembra nascere da un'infanzia difficile e da un cattivo rapporto con i genitori, mentre per te il lesbismo ha un'origine naturale e reputi più sensato e interessante scrivere una storia d'amore tra donne nel contesto della società moderna, che non grida più allo scandalo, che non mette al bando libri sull'argomento, che non li processa per pornografia, ma che non ha ancora abbandonato la diffidenza verso ogni altra forma di sessualità alternativa. Verremo a vederlo. Non poteva mancare nella nostra trasmissione un argomento estremamente di moda al momento, internet. Intendiamoci, anche le mode possono avere aspetti positivi e per noi ovviamente è stupendo vedere come negli ultimi 2 anni ci sia stato un proliferare di siti lesbici. Quelli che a me sembrano i migliori al momento sono, purtroppo, entrambi americani. Il primo è www.saffo.com. Attenzione, Saffo è appunto all'americana, cioè S-A-P-P-H-O. ha come sottotitolo Guida essenziale per lesbiche che hanno sale in zucca nella rete ed è infatti ricco di indicazioni sui siti lesbici da visitare, divise per argomenti. Dalla sezione riservata alla musica si possono raggiungere direttamente i siti dedicati alle musiciste lesbiche, tra cui Annie DiFranco, che abbiamo appena ascoltato, Melissa Etheridge, Katie Lang e le Indigo Girls, che ascolteremo tra poco. L'altro sito americano è www.lesbian.org, che ha come sottotitolo ancora più interessante Promuovere la visibilità lesbica su internet. È infatti un sito più, come dire, politicamente impegnato ed oltre ai classici link propone liste di discussione ed un'intera sezione completa di newsletter sul lesbofemminismo. Fornisce anche informazioni sulle attività politiche lesbiche locali alla California o relative agli interi Stati Uniti. Ancora più interessante è la collaborazione che lesbian.org ha con un motore di ricerca dedicato completamente alle donne, il www.wwwomen.com. In Italia però non siamo da meno e nell'ambito dell'ammirevole progetto del server donne di Bologna, www.women.it, nella sezione autogestita spiccano le pagine lesbiche curate da Nerina Milletti, dove, tra le altre opzioni, si possono trovare anche le versioni online della bollettina del CLI e della rivista Toanda. Come primo ed unico sito italiano dedicato alla politica lesbica separatista, non posso non citare, e chi mi conosce sa perché, il sito dell'associazione bolognese Visibilia, che ha come locazione principale, attenzione che è lungo, www.comune.bologna.it/bologna/ASSCLV. Non vi preoccupate, le pagine di Visibilia sono anche presenti sul server donne e tra le varie opzioni, oltre alle pagine delle news e dei link, c'è online una versione dell'intero archivio video creato da Visibilia a partire dal 1993, anno della prima edizione del Festival del Cinema Lesbico Immaginaria. Tra l'altro lo staff di Immaginaria partecipa alla creazione di una home page nell'ambito del coordinamento dei Festival del Cinema Europei della CEE. Questa home page sarà dedicata ai 15 festival di cinema delle donne che si sono riuniti in conferenza a Dortmund nel mese di settembre. Beh, su internet c'è tanto da dire, sia in negativo che in positivo, ma come dimenticare che lo strumento della mail, ovvero della posta elettronica, sta sempre di più contribuendo a mettere in contatto le lesbiche di tutto il mondo? Ed eccoci con la nostra musica lesbica indipendente. Sentiremo Knowledge delle Subway, brano tratto dal numero zero, opera prima di quattro ragazze francesi. Speriamo che esista prima o poi anche un numero uno. Can't gli appuntamenti. Ricordiamo che alla fine di marzo a Roma si terrà il quinto incontro dei gruppi e delle singole che si riconoscono in una politica lesbica separatista. Le lesbiche che volessero aderire ai quattro progetti illustrati da Pina nella nostra precedente trasmissione, ovvero salute, formazione, controinformazione ed economia, possono rivolgersi al Coordinamento Lesbiche Romane inviando un fax o lasciando un messaggio al 68 64 201. Potete trovarci allo stesso numero ogni mercoledì dalle 20 alle 22 o potete venirci a trovare al Buon Pastore, via San Francesco di Sales, 1A. A chi è presente nell'indirizzario di Visibilia è arrivato l'invito al 6° Festival del Cinema Lesbico Immaginaria, che si svolgerà dal 26 febbraio al 1 marzo a Bologna, nella bellissima e centralissima multisala Nosadella. Tra i titoli indicati nel programma, molto ricco e significativo, citiamo Fistful of Flies di Monica Pellizzari, Groove on Stalin Knife di Pinj Krishnan e Beth Kutler, Tu le giuri il Fenui di Marinka Villanova. Tra le novità indicate nell'opuscolo, il premio speciale del Centro di Documentazione delle Donne di Bologna, assegnato al miglior film documentario di ricostruzione storica. Tra le ospiti ci sarà anche una pioniera del cinema lesbico, la statunitense Barbara Hammer, della quale verranno presentati due recentissimi documentari ed una retrospettiva. Nello spazio dibattiti si parlerà di economia lesbica, una realtà tedesca, la casa di riposo per lesbiche anziane, di madri lesbiche e di stampa lesbica, in un confronto tra tre riviste europee lesbiche indipendenti. Per informazioni potete inviare un'email a asclb@iperbole.bologna.it oppure telefonare tutti i mercoledì dalle 18 alle 21 allo 051 263 592. E siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione a cura del Coordinamento Lesbiche Romane, in onda all'interno del martedì femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Il telefono della radio è 491750 oppure 4469102. Gran titolone sulla Repubblica del 25 settembre 1997. Bimba mutilata dal padre. A 12 anni ha dovuto subire l'infibulazione. L'uomo è stato denunciato per lesioni e rischia una pena di 12 anni. È un caso noto perché la madre della bimba, italiana, ha deciso di denunciare questo grave atto di violenza. Ma quanti altri casi non conosciamo o quanto si conosce sulle mutilazioni genitali femminili? La maggior parte delle studiose e degli studiosi classificano le mutilazioni genitali femminili in tre classi fondamentali. La circoncisione, che consiste nella recisione del prepuzio della clitoride, è la forma più blanda perché preserva la clitoride e le parti posteriori delle piccole labbra. La clitoridectomia, o recisione, è la pratica più comune e implica la rimozione dell'intera clitoride insieme con tutta o una parte delle piccole labbra. L'infibulazione è la forma più severa di questa pratica e comporta il taglio della clitoride, delle piccole labbra e delle grandi labbra. Le rimanenti estremità delle grandi labbra sono quindi cucite insieme in modo tale che l'orifizio vaginale venga quasi totalmente chiuso. La ferita viene cucita in maniera rudimentale e per facilitare la cicatrizzazione vengono impiegate sostanze adesive costituite da miscugli di sostanze naturali. Le ceneri usate per controllare l'emorragia, in special modo nelle aree rurali dell'Africa occidentale, sono spesso causa di infezioni violente ed in seguito alla mutilazione le gambe della bambina vengono legate per immobilizzarle per diverse settimane finché la ferita della vulva non guarisce. La prima notte di nozze, la cicatrice dei genitali deve essere defibulata per consentire la penetrazione. Generalmente, in seguito ad ogni nascita, viene praticata la reinfibulazione, per, tra virgolette, restituire al corpo della donna la sua condizione prematrimoniale. Gli strumenti utilizzati per compiere le mutilazioni genitali femminili sono primitivi e raramente questi strumenti sono sterilizzati. tranne che negli ospedali, dove purtroppo praticano questo tipo di mutilazione, l'anestesia non è quasi mai impiegata. Tradizionalmente, la mutilazione è invece eseguita dalle donne più anziane, per le quali tale tipo di pratica costituisce una fonte redditizia di guadagni. L'età per la sua realizzazione cambia sia geograficamente che per gruppo etnico di appartenenza ed è in genere compresa tra la prima settimana di vita fino ai 20 anni, ma viene eseguita sempre più spesso su bambine tra i 3 e gli 8 anni. L'origine della pratica è sconosciuta ed è presente da un lato all'altro dell'Africa, tra il tropico del cancro e l'equatore, Yemen del Sud, Oman, Emirati Arabi, Bahrain, Somalia, Etiopia, Kenya e Djibouti, Sudan, Nigeria del Nord e Mali. Le forme meno cruente sono eseguite in Asia dalle popolazioni musulmane della Malesia e dell'Indonesia, ma anche tra le tribù aborigine dell'Australia e del Pakistan, Sri Lanka, Perù, Brasile, Messico dell'Est e Russia, e perfino nelle società occidentali. Gli immigrati hanno infatti portato queste usanze negli USA e in Europa, in particolare in Inghilterra e in Francia. Ci sono varie giustificazioni, se così si può dire, alla base delle mutilazioni genitali femminili. Malgrado non siano centrali all'insegnamento delle tre religioni monoteistiche, giudaismo, cristianesimo e islamismo, si ritiene che la pratica sia un requisito religioso. Sebbene l'origine non sia islamica, è proprio nelle tradizioni musulmane che risiede la sua forza, lì dove la sessualità femminile è considerata un istinto lussurioso, da controllare e da praticare esclusivamente all'interno della struttura di un matrimonio ufficiale ai fini riproduttivi. In aggiunta alla religione, sono state avanzate molte considerazioni al fine di spiegare le mutilazioni genitali femminili nel contesto delle culture antiche, che vanno dall'affermazione dell'identità del genere alla necessità di impedire la masturbazione o di imporre pulizia e purezza. Anche la tradizione è una giustificazione ampiamente sostenuta per il persistere delle mutilazioni genitali femminili. Per una famiglia tradizionale è estremamente raro mettere in discussione l'essenza dell'usanza che è sostenuta da una consuetudine profondamente radicata. Le donne crescono e vivono con l'idea che una ragazza non circoncisa sia inaccettabile e non sarà chiesta in matrimonio, unica soluzione spesso per assicurarsi un futuro. In una cultura in cui i valori fortemente radicati di castità prematrimoniale e matrimonio sono intrinsecamente legati alle mutilazioni genitali femminili, la sofferenza fisica è preferita all'ostracismo destinato ad una ragazza non circoncisa. Questo spiega perché le donne siano le più convinte sostenitrici della pratica e perché le sofferenze ed il rischio di gravi infezioni siano spesso viste come preferibili alla condizione di essere una reietta non circoncisa. Per secoli il tema delle mutilazioni genitali femminili è stato nascosto nel segreto e nel tabù. Portato alla luce da femministe, professioniste sanitarie e scienziati sociali, ha suscitato in Occidente reazioni di grande sdegno, di orrore e di condanna. Se ciò ha aiutato a rompere il silenzio, senza il riconoscimento della complessità e della delicatezza del problema, ha però aumentato la distanza tra i movimenti femministi dell'Occidente e quelli del Terzo Mondo. Alcune femministe africane hanno criticato la campagna occidentale contro la pratica, denunciandone l'ignoranza e la totale mancanza di considerazione del particolare contesto nel quale le donne africane stanno lottando, rivendicando il diritto alle differenze culturali e alla difesa dei valori tradizionali. L'impegno politico delle femministe e dei gruppi internazionali per l'abolizione della pratica deve quindi capire il contesto specifico in cui essa si sviluppa. Nell'ottica di una cultura evolutiva, a molto potrebbe servire il coinvolgimento a livello sociale, per creare una più profonda consapevolezza del proprio essere. Se però la tortura oggi viene denunciata in tutto il mondo e condannata, si deve rompere questo silenzio che copre un delitto a nostro parere mostruoso. L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato nel luglio 97 che la mutilazione delle bambine è una grave forma di persecuzione e di tortura, ma in realtà nessuna azione organica è stata intrapresa per interrompere una pratica così diffusa. Un applauso va, tra le altre, ad alcune femministe della Casa Internazionale delle Donne di Roma, che tanti sforzi hanno compiuto per pubblicare il libro I diritti delle bambine. La nostra posizione? Beh, noi riconosciamo valore al relativismo culturale, ma riteniamo che le culture non siano statiche, non devono esserlo, sono in continuo movimento, perché dovrebbero condensare le esperienze delle persone e delle generazioni che si susseguono nel tempo, le quali modificano quei comportamenti culturali che negano la vita e la sopravvivenza, e soprattutto la dignità delle donne. in my soul, the drinks of my wine, and I give my last breath to keep us alive. Are they coming for us? Cameras or guns? We don't know which, but we gotta run. And you say this is not what I bargained for. We swore to ourselves we'd go to the end of the world, but I got caught up in the world, the twirl of it all. A day in the sun, dancing alone, baby, I'm so sorry. Fugitive, tratto da Swampofilia, il CD delle Indigo Girls del 94. Anche se questo CD è edito dalla Epic, le due ragazze lesbiche americane hanno un lungo passato di autoproduzione. Ed ora vi salutiamo con una notizia che viene da Londra e che è stata pubblicata sul numero doppio di Noi Donne, uscito ai primi di gennaio. Grazie alla lunga battaglia legale condotta per una coppia di suoi clienti da Sherry Booth, avvocata di Grido e moglie del capo del governo inglese Tony Blair, d'ora in avanti anche le compagne di donne impiegate dalle ferrovie britanniche potranno usufruire della riduzione delle tariffe, riservata fino ad oggi esclusivamente ai coniugi. Poiché anche questo è economia lesbica, ci chiediamo: ma la moglie di Prodi che fa? Ciao a tutte e a risentirci alle 19:15 della prossima settimana. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Yeah.